Ripensando a quei giorni, ogni cosa nell'underground era veloce, veloce, veloce. Era la regola. Ma quando vennero fuori i Melvins con il loro primo album, Clay Porch Treatments, cambiò tutto, specialmente a New Orleans. Le persone iniziarono ad amare il suonare lento, tornarono ai vecchi Black Sabbath e iniziarono a guardarsi intorno scoprendo St. Vitus, Witchfinder General e Pentagram. È così che Phil Anselmo, cantante e leader dei Maestosi Pantera, in un'intervista rivanga il passato musicale della sua città di origine, New Orleans, ed è proprio qui che lo sludge nacque, tutto ebbe inizio. Se si attola il grunge, New Orleans ha lo sludge. Difficile pensare a questo genere senza pensare alla Louisiana. Proprio come il grunge, la scena di New Orleans nacque nel circuito punk grazie a pionieristici tentativi di band ormai quasi dimenticate. Quindi, dopo aver provato a raccontarvi delle band che hanno fornito le caratteristiche essenziali per creare il genere, ora è necessario spiegare dove e come esso ha preso forma. Si riparte un'altra volta dagli anni Ottanta, periodo in cui la scena di New Orleans iniziò a popolarsi di una manciata di band hardcore, scorrette, veloci e piuttosto pesanti, che diedero un contributo fondamentale al genere che di lì a poco si sarebbe manifestato. Piano negli anni lo sludge uscì fuori come un coccodrillo da una palude stagnante per agguantare una preda e stritolarla nelle sue enormi fauci. Benvenuti a Diabolus in Musica. Sigla. Allora, ragazzi e ragazze, ben ritrovati su Radio Wombat. Allora, vediamo di parlare delle origini di New Orleans. I Shell Shock furono a quanto pare la prima band hardcore locale di New Orleans, appunto. Formati nel 1979, nei primi anni 80 pubblicarono una manciata di singoli e demo di scuola Black Flag Dead Kennedys. Nel 1986 pubblicarono Whites of Their Eyes e nel 1987 entrò nella band Kirk Weinstein, il possente e immortale chitarrista cantante dei Crowbar. L'approccio più heavy di Kirk segnò un netto cambio di stile per la band, che con l'album More Gore nel 1988 toccherà lì di crossover thrash. Ma purtroppo la band ebbe vita breve perché durante la registrazione di No Tomorrow il chitarrista Mike Hatch si tolse la vita e la band si sciolse. Prima di proseguire vi faccio ascoltare un brano veloce e dimenato di questi Shell Shock. Il brano si intitola My Brain is Jelly ed è tratto da una compilation che venne pubblicata postuma. Questi sono gli Shell Shock, primo brano del giorno, a cazzo duro. My brain. Questi erano gli Shell Shock con My Brain is Jelly. Dopo un anno o due dal drammatico suicidio del chitarrista Mike Hatch, nacquero gli Aftershock, formati dal già citato Kirk Weinstein alla chitarra e alla voce, Kevin Noonan alla chitarra, Mike Savoy al basso e il monumentale Jimmy Bauer alla batteria. La musica degli Aftershock è forse la prima comparsa del sound sludge di Nola, per via della lentezza brutale della batteria di Jimmy Bauer, che sta ancora maturando il violento groove che esploderà nell'album The Crowbar Broken Glass e che lo contraddistinguerà tra mille. Il sound dei Melvins si fa sentire, la musica che esce dal loro primo demo è come un sudicio ciccione che mastica dei sassi. E quindi spariamoci questo loro primo demo del 1989. Questi sono gli Aftershock da New Orleans con Feeding Fear in alto le corna. Vari cambi di line-up porteranno gli Aftershock a rinominarsi The Slugs, i pre-Crowbar praticamente, i quali riusciranno a registrare un leggendario demo prima di sciogliersi. Leggendario perché appunto non posso farvelo ascoltare perché non sono riuscito a recuperarlo. Il demo costò solo $150 e divenne la base per i futuri Crowbar e di tutto lo sludge di New Orleans, unico perché la band si scioglierà dopo la registrazione fallendo per l'ennesima volta il test del tempo. Un anno dopo, nel 91, Kirk rimise insieme la band, questa volta con Craig Nonemaker alla batteria, futuro batterista dei Black Label Society, Kevin Noonan alla chitarra e Strange al basso, e finalmente nacquero i Crowbar. I Crowbar sono uno dei gruppi fondamentali di New Orleans, e adesso mi ci soffermo e ci godo tanto. Il primo album dei Crowbar esce nel 1991, Obedience Through Suffering. Finalmente con questo album si ha la consolidazione perfetta di tutte le influenze di cui vi ho parlato finora, nelle puntate precedenti. Il doom dei Saint Vitus, dei Black Sabbath e dei Pentagram, che si fonda con l'hardcore dei Black Flag. Il proto-sludge dei Melvins, che fa da fondamenta, e una manciata di thrash come quello dei primi Celtic Frost o quello dei Sodom, sono l'enorme Ercole che sorregge il neonato sound dei Crowbar. Obedience Through Suffering è stato l'album giusto al momento giusto, battendo sul tempo il debutto degli Hyatt Gad di qualche anno e di tante altre band doom groove che da allora sono state associate alla scena musicale di Nola. I Crowbar furono i primi e i soli a dar vita a questo violento ibrido, che negli anni si raffinò sempre di più, dando vita ad album di una bellezza infinita. Gioiamo, ragazzi e ragazze, lo sludge è nato, e il suo possente e lento passo schiaccia tutto quello che calpesta. Veniamo alla musica. Tratte dall'album di esordio dei Crowbar del 1991, queste sono Vacuum e Subversion. E questo è il cazzo di sludge, ragazzi. Fear of sin and sexual, no fun. Questi erano i Crowbar con il loro album d'esordio Obedience Through Suffering del 1991. Ok, allora passano 2 anni e nel 93 rilasciano il loro secondo album, l'omonimo Crowbar, prodotto da niente poco di meno che da Phil Anselmo, leader dei Pantera, che poi se li porterà in tour con lui. Grazie alla sua notorietà nel mondo della musica, Anselmo, da buon amico e amante della musica della sua città, supporterà sempre la scena di New Orleans. Ai concerti dei Pantera e nei video indosserà sempre le magliette con soprannomi delle band di Nolan, i Crowbar, gli Hyatt God. Sicuramente grazie al suo supporto queste band hanno avuto un preziosissimo slancio nel mondo della musica e noi fan non possiamo fare a meno di ringraziarlo. Per dirvene una, io i Crowbar o gli Hyatt God appunto li ho scoperti ragazzino grazie al video dei Pantera I'm Broken, dove appunto Anselmo indossa una loro maglietta. Ma veniamo all'album. Dietro al violento sound tipicamente hardcore si nasconde l'intenzione di rappresentare un'epica metropolitana, espressa in sofferenti fraseggi eleganti ma profondamente malati al tempo stesso. L'intenzione della band era quella di narrare una sofferenza che non fosse mera riflessione esistenziale, ma qualcosa di molto concreto e tangibile, come i morsi della fame in un buio parco pubblico della periferia americana, tra prostitute, clochard e siringhe usate. Quindi al di là dell'invenzione musicale di genere, è anche in questa particolarità che risplende la grande capacità artistica di Crowbar. La vera maturità artistica musicale si avrà veramente con gli album successivi, ma questo Crowbar del 1993 mostra una maturità e una lungimiranza notevole. Il sound di questo CD è dannatamente lento, disarmante e incazzato. È una mozzicata in faccia e un calcio nei denti, e ne sono la prova questi brani che ora ci spariamo forti nella vita. Tratte dal secondo lavoro di Crowbar, queste sono I Great Extinction, All the Hate I Gave e la colossale Existence is a Punishment. Thank you. E questa era Existence's Punishment. Un cazzo di muro che ti casca addosso. Dopo questo secondo omonimo album, i Crowbar vanno avanti. La formazione rimane solida e nel maggio del 1995, due anni dopo, sfornano il loro terzo album, Time Heals Nothing. In questo CD la lentezza brutale fa sempre da padrone e il suono che ne esce è puro e semplice odio distillato. Le tematiche sono sempre le stesse e il sound della band di New Orleans si fortifica e si prepara per dar vita al vero capolavoro che uscirà solo un anno più tardi. Ma prima di arrivare a loro ci ascoltiamo qualche traccia di questo Time Heals Nothing. Tratte dal terzo album del 95 di Crowbar, queste sono The Only Factor, Leave It Behind e Lack of Tolerance. Take it, walk all over the earth, one and two. E questi erano i Crowbar con il loro terzo album del 1995, Time Heals Nothing. Ragazzi, sono delle bestie queste persone. Come dicevo prima, però, solo nel 1996 i Crowbar sfornarono il loro vero fottuto capolavoro. E questo è uno di quei CD per il quale ho deciso di fare questo programma, perché l'idea di metterlo in radio mi faceva rizzare i peli del cazzo e del culo. Non vedevo proprio l'ora di farlo suonare e ora finalmente ci siamo. Broken Glass non è solo uno degli album più violenti, sensazionali, cazzuti degli anni 90, ma è il fondamento principale di tutto lo sludge, e nel particolare di quello di New Orleans. Una prelibatezza metallizzata che ancora oggi fa il culo a tutti. Un concentrato di attitudine vertiginoso e inebriante che ti fa venire voglia di ubriacarti male e di fare una rissa sanguinosa. Basterebbe ascoltare il primo album del CD che ti prende alle spalle con una tibiata sulle labbra per capire con cosa abbiamo a che fare. Questo album prende il posto alla batteria il grossissimo Jimmy Bauer Power. Questo uomo non suona la batteria, la pesta e la sventra. Bauer, a mio parere, è uno dei migliori batteristi che esiste al mondo, ma non per la tecnica, ma per la sua attitudine e la sua intuitività sonora, e per la sua creatività, e ne è una prova il brano Like Broken Glass. Jimmy Bauer è il re della lentezza e del ritmo dimezzato. Basta dire parolacce e ascoltiamoci questo CD fenomenale. Ve lo faccio ascoltare, non dico tutto, ma quasi. E quindi ecco a voi Broken Glass del 1996, quarta fatica dei Crowbar di New Orleans. E ad aprire le danze, o forse dovrei dire la mattanza, troviamo la demolitrice Conquering. Reggetevi, fanculo addio. Cioè, ragazzi, ma cazzo, ma l'avete sentita la batteria? Quando colpisce il cazzo di rullante Bauer o la gran cassa è come ascoltare il rimbombo di un cazzo di tuono. Non lo so, il rumore di un camion che si è schiantato al suolo cadendo da un palazzo. Lo schianto di un'onda anomala su una scogliera. Ti fa perdere i capelli questo bastardo quando suona la batteria. E questo vuol dire suonare uno strumento in modo heavy, merda. Andiamo avanti, va. Questa è Like Broken Glass. Thank you. Spero vi stia piacendo come sta piacendo a me questo CD. Andiamo avanti, questo è Wrath of Time with Judgment. Oh, Questo era Banyo World, vi ricordo che state ascoltando i Crowbar qui su Diabolus Musica e nel particolare stiamo ascoltando Broken Glass, album del 1996. Bene, vi faccio ascoltare l'ultimo brano tratto da questo CD e poi ci risentiamo a fine pezzo per i ringraziamenti, per i saluti e per una piccola chicca. Bene, questo è Above, Below and In Between. Madonna che pezzacchione ragazzi. E questa era Above, Below and In Between di Broken Glass del 1996, The Crowbar. Bene, con oggi, con questo pezzo chiudo oggi il programma sui Crowbar e vi do appuntamento al giovedì prossimo e continuerò a parlare sempre di loro e se mi rimane tempo inizierò anche gli I Hate God, l'altra band, una delle altre band fondamentali del sound di New Orleans. Bene, in questi 5-6 minuti che ci rimangono vorrei fare un piccolo e doveroso omaggio perché lunedì scorso c'è stato l'anniversario della morte di Scott Walker, scomparso nel marzo del 2019, e quindi adesso vi faccio ascoltare uno dei suoi pezzi più belli, un po' per scaldare gli animi e un po' perché, ripeto, è doveroso perché è stato uno dei cantanti più belli e intensi della storia della musica. È stato un piacere ragazzi, fate i bravi, ci vediamo giovedì prossimo con i Crowbar e forse gli I Hate God. Vi saluto con questa Rosemary di Scott Walker, tratta da Scott Walker 3, l'album, l'anno non me lo ricordo, ma va bene lo stesso. Fate i bravi, pace e amore, a giovedì prossimo, ciao. Voices from a photograph left from your wall, screamed through your dreams. Wake up, Rosemary, and wipe your teary eyes. Rise and cross the cold bare floor and watch the moon through frosted glass. Damn that photograph, I'll have to take it down. She hears the boats as they move down the river. She sees a dog straining hard on his leash to get away. She hears a clock and it strikes like a hammer, pounding the nails one day further in the coffin of her youth. Evenings with your mother's friends, pregnant eyes, sagging chins, swollen fingertips, poor antique cups of tea. Who are you and where you've been? Suspended in a weightless wind, watching trains go by from platforms in the rain. Look at the photograph, dream back last summer, dream back the lips of that traveling salesman, Mr. Jim. He smelled of miracles with stained glass whispers. You loved his laughter. You tremble beneath him once again. That's what I want. And you shot at life, but my coat's too thin, my feet won't fly, and I watch the wind and I see another dream blowing by.